Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, fate, come dire, un piccolo passo indietro e ricordate, ma lo ricorderete benissimo, se siete tra coloro che hanno partecipato negli anni passati al cosiddetto scudo fiscale, la terza edizione dei capitali detenuti all'estero. Questa puntata di Salva Danaio potrebbe essere molto utile per voi, soprattutto nel caso vi foste dimenticati, ma sicuramente la vostra banca e il vostro commercialista vi avranno ricordato questo appuntamento, che va versata entro il 16 luglio l'imposta di bollo annuale che il governo Monti ha introdotto su queste attività finanziarie cosiddette emerse. Si applica un'aliquota anche abbastanza significativa, al 13,5% alla cifra detenuta al 31 dicembre dell'anno scorso, che verrà trattenuta naturalmente dall'intermediario finanziario. Questa però solo nel caso in cui la somma sia segretata o lo sia stata almeno per una parte del 2012. Cosa vuol dire tutto questo? Non vi è tutto chiaro. Oggi cercheremo di capirci qualcosa in più nel corso naturalmente della nostra trasmissione. Vi spieghiamo il funzionamento di questa imposta, ma magari allargheremo anche il tiro a tutte le cosiddette attività finanziarie detenute all'estero, come devono essere anche disciplinate con il fisco italiano. 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande se volete intervenire in diretta. In alternativa, come sapete bene, avete anche l'opportunità di scriverci degli sms al 349 238 6666. Potete scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Abbiamo anche un profilo su Facebook, salvadanaio-radio24, su Twitter, @salvadanaio24. Allora, detenete attività finanziarie all'estero, vi ricordavate della scadenza del 16 luglio? Con noi sta arrivando, lo avremo con noi tra qualche minuto, l'avvocato Fabrizio Vedana, vice direttore generale di Unione Fiduciaria SPA, che è la società fiduciaria dei servizi appunto delle banche popolari. Prima di parlare di tutto questo, naturalmente oggi un'occhiata alla borsa, perché è anche una giornata piuttosto importante. Cominciamo intanto con l'andamento dei mercati azionari, tutti in calo in Europa rispetto all'apertura, però c'è stato un miglioramento a Parigi, a Francoforte, che perdevano più di mezzo punto percentuale, adesso rispettivamente il calo è dello 0,37% per Francoforte e dello 0,28%, Londra perde lo 0,4%, Madrid e Milano sono in calo di oltre un punto percentuale e qua chiaramente si è fatta sentire la scure di Standard & Poor's, che ieri sera ha tagliato il rating di lungo termine dell'Italia, lo ha passato a BBB+, questi rating sono tutti molto complicati, però la prospettiva è anche negativa per il giudizio sull'Italia. Volevo commentare tutto questo anche perché c'è stata stamattina un'asta del Tesoro italiano con il nostro Vito Lobs, collega del Sole 24 ore. Vito, collegato telefonicamente con noi, buongiorno. Buongiorno. Allora, il Tesoro ha collocato tutti e 7 miliardi di botta un anno come nelle previsioni. I rendimenti però richiesti dal mercato sono stati un po' più alti. Sì, dell'ultima asta, diciamo, sì. Il rendimento è salito quindi oltre la soglia che viene definita psicologica dell'1% per quanto riguarda il bot a 12 mesi, ma questo dato non deve essere interpretato in modo negativo per due motivi. Uno, perché più o meno si è accodato a quello che già esprimeva, diciamo, il mercato secondario negli ultimi giorni, e poi perché la domanda, altro aspetto molto rilevante quando si fa un'asta, è stata superiore a quella dell'asta precedente, quindi diciamo che l'esito è stato favorevole. Certo, diciamo che i rendimenti si sono allineati a quelli che già il mercato stava chiedendo da qualche tempo, per cui non hanno effettivamente risentito del nuovo giudizio negativo di Standard & Poor's. Mi sembra che l'impressione possa essere confermata come tale, insomma. Sì, anche perché se poi guardiamo anche l'andamento dello spread, oggi è sì un po' volatile, ma si mantiene intorno a 280 punti base, quindi anche in questo caso è un ulteriore parametro che ci dà la dimensione del fatto che al momento l'effetto Standard & Poor's è decisamente contenuto. Allora, per quello che riguarda invece gli altri appuntamenti con il Tesoro italiano, ti viene in mente se ce ne sono altri in tempi brevi? Mi pare di sì, in settimana. Ecco, domani l'attenzione si sposta per l'appunto a domani, quando ci sarà un'asta sia di BTP a 3 anni che di BTP a 30 anni, quindi è molto importante perché parliamo sia di titoli che rientrano nell'ambito della copertura, tra virgolette, dello scudo antispread, quindi quelli fino a 3 anni, e poi quelli invece sulla lunghissima durata come i trentennali, e quindi abbiamo sia la parte breve che la parte lunga della curva, quindi anche in questo caso sarà molto interessante vedere come si distribuirà la domanda. Quindi ecco, forse paradossalmente domani l'asta e il test del mercato è più significativo di quello odierno. Grazie a Vito Lopes per essere stato con noi. Vito, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Per tutti gli ascoltatori che ce li stanno chiedendo, siccome non li accontento spesso, oggi lo facciamo. I migliori titoli di Piazza Affari: Fiat più 2,68%, ormai procede a passo di carica tutta la scuderia del Lingotto. Fiat Industrial più 0,6%, TOTS, ancora il lusso in evidenza dopo che ieri è stato letteralmente galvanizzato dall'operazione dei francesi di Alvemache sulla Rupiana. Campari più 0,45, Exor più 0,17. I cali più forti invece chiaramente sulle banche: Monte dei Paschi meno 2,81%, Telecom meno 2,79%, Finmeccanica meno 2,28%. Andiamo al tema di oggi: capitali all'estero, bollo da pagare entro il 16 luglio. Chi ha aderito negli anni passati allo scudo fiscale ha consentito all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali che deteneva all'estero e che non aveva dichiarato fino a quel momento al fisco italiano. Ha potuto quindi regolarizzare la propria posizione semplicemente pagando una tassa sul capitale interessato e beneficiando della non punibilità dei reati tributari compiuti. Un condono, insomma, che aveva l'obiettivo di far emergere il nero e ampliare l'imponibile. L'anno scorso, nel periodo peggiore della crisi, ogni aspetto della vita degli italiani ha visto nascere o aumentare le pretese del fisco. E la possibilità di attingere anche a queste somme è diventata un tema all'ordine del giorno. Il governo, guidato in quella fase da Mario Monti, ha introdotto così una duplice imposta su questo denaro emerso. Una tassa straordinaria una tantum, richiesta soltanto per il 2012, e un'imposta di bollo annuale, che quindi torna a riproporsi anche nel 2013, con una scadenza ormai molto ravvicinata, il 16 luglio. L'aliquota per quest'anno è molto salata, si tratta del 13%, contro il 10% dell'anno scorso, quando però c'era anche l'una tantum. Dall'anno prossimo in poi, il peso di questo bollo sarà più lieve e si limiterà al 4%. Si applica sul totale detenuto al 31 dicembre dell'anno precedente, e quindi in questo caso il 31 dicembre 2012. Paga solo chi detiene un'attività finanziaria segretata, usufruisce cioè di un particolare regime di riservatezza, per il quale, pur avendo sanato la propria situazione, non c'è stata alcuna segnalazione del suo nominativo all'Agenzia delle Entrate. Non a caso il compito di trattenere quanto dovuto spetta all'intermediario: banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, poste. Chi ha scelto nel corso dell'anno passato di porre fine alla segretazione pagherà solo in proporzione al periodo in cui ha mantenuto l'anonimato. Non solo è arrivato tardi l'avvocato Vedana, ma subito ha messo in evidenza l'errore clamoroso, appunto, che abbiamo fatto sia in apertura del mio programma che nella scheda, perché chiaramente, per non far qua morire di scompenso cardiaco qualcuno stamattina che deve regolarizzarsi con queste posizioni, l'imposta della quale parliamo questa mattina è delle... Avvocato, me lo dica lei, perché almeno non sbaglio più le percentuali. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Ecco. È dell'1,35%. Quindi 13,5 per mille. 13,5 per mille. Quindi sì, l'ho sbagliato io all'inizio, l'abbiamo sbagliato nella scheda. Cosa avremmo fatto ieri pomeriggio? Non si sa, pazienza. Ma in realtà poi mi sono chiesta anche tante volte, guardando queste percentuali, dico, però qua c'è veramente qualcuno che ci pensa prima di scudare i suoi capitali, a parte che l'operazione ormai è più che terminata. Però, insomma, qualora si trovasse questa sorpresa, l'anno scorso era stata invece dell'1% o 10 per mille. L'anno prossimo sarà piccolissima. Sarà lo 0,4% o, insomma, detto in altri termini, il 4 per mille. Benissimo, allora ci cospargiamo il capo di cenere, ma andiamo avanti, appunto, spiegando in realtà cosa succede entro il 16 luglio. Il fisco passa all'incasso, avvocato Vedana, per le attività scudate qualche anno fa in questa terza operazione, mi pare, del Tesoro italiano, perché nel corso di tutta la sua storia non ne ha fatte moltissime, tutte le volte hanno fatto discutere, però questa è stata la terza. Questa è stata la terza barra quarta, perché c'era stata una riapertura nel dicembre del, diciamo, nel fine anno 2009 e una riapertura nel 2010, quindi di fatto si contano quattro scudi. Questa imposta speciale sugli scudi è un'imposta che è stata introdotta dall'allora governo Monti con il famoso decreto Salva Italia, quindi con l'articolo 19 del decreto Salva Italia è stata introdotta questa imposta speciale sugli scudi che i più considerano di fatto essere un'imposta sul segreto o sulla riservatezza da scudo. È bene precisare che è un'imposta che non si applica però solo agli scudi più recenti, ma a tutti gli scudi. Quindi chi, e ce ne sono ancora di italiani che hanno fatto gli scudi. Ah, quindi non riguarda solamente tutte le attività finanziarie che sono state scudate nell'ultima operazione, no. Anche tutte le precedenti. Anche quelle del 2001-2003. Quanti sono gli italiani che hanno ancora quei conti segretati? Non sono tutti, ma un largo circa dal nostro osservatorio, circa tra il 20 e il 30% di quelli che hanno fatto gli scudi tra il 2001 e il 2003 hanno tutt'oggi la riservatezza da scudo, quindi non si sono ancora avvalsi della possibilità di esibire il pezzo di carta famoso, la dichiarazione riservata nei confronti dell'amministrazione fiscale. Molti di più sono percentualmente quelli che hanno fatto lo scudo tra il 2009 e il 2010 che mantengono la riservatezza, stiamo nell'ordine del 50% circa. Provando a fare due conti molto spannometricamente, Deborah, abbiamo pensato, riteniamo che fatto 200 miliardi circa il totale dei quattro scudi, quindi il totale del rimpatriato giuridicamente o non con i quattro scudi, con le quattro edizioni dello scudo, diciamo che lo scorso anno, quindi calcolando circa un 30-40% ancora sotto riservatezza da scudo, credo che anche quest'anno lo Stato punti ad avere un introito, un incasso il 16 luglio non lontano dal miliardo di euro come imposta pagata a fronte del mantenimento di questa particolare riservatezza da scudo. Poi entreremo nel merito appunto della questione della cosiddetta segretazione, però le volevo chiedere anche per così tranquillizzare tutti i nostri ascoltatori che come sempre capita quando ci occupiamo di questo argomento contestano un po' l'approccio, nel senso che dicono parlate sempre delle persone che chiaramente non sono in regola con il fisco italiano e detengono chissà quali attività all'estero. In realtà parliamo anche di famiglie che per esempio possono aver per una parte della loro vita lavorato all'estero e non hanno mai regolarizzato queste posizioni con il fisco italiano, a volte anche in totale buona fede, chi ha fatto un investimento all'estero nel mattone, si è comprato una casa in una capitale europea perché aveva un po' di liquidità da poter investire e magari non l'ha correttamente regolarizzata con il fisco italiano, quindi non è che ci siano poi sempre delle attività finanziarie occulte o di chissà quale origine, no? Avvocato? È così, anche perché diciamo soltanto in tempi recenti, cioè dal 2010, l'amministrazione finanziaria italiana ha finalmente chiarito in maniera precisa come devono essere esibite, indicate nella dichiarazione dei redditi le varie attività finanziarie o patrimoniali. A questa seconda categoria, ad esempio, appartengono gli immobili, quindi la classica vacanza, la classica casa di vacanza che molti italiani hanno in Costa Azzurra piuttosto che a St. Moritz, piuttosto che in giro per il mondo. Fino a prima del 2010 non era stato chiarito dall'amministrazione finanziaria che anche questi beni dovessero essere esposti nel famigerato quadro RV, tema sul quale anche oggi Sole 24 Ore riporta importanti novità proprio sul tema dell'RV. Quindi prima del 2010 molti italiani avevano questi immobili all'estero, però non sapevano materialmente, perché nessuno gliel'aveva mai detto in maniera così puntuale e chiara, quindi non era stato chiarito dall'agenzia, come invece poi ha fatto l'agenzia tra il 2009 e il 2010, che dovessero essere messe in dichiarazione dei redditi. Altro esempio classico è l'italiano che fa un percorso professionale all'estero, oltre confine, viene pagato all'estero perché magari si è trasferito con moglie e figli all'estero e ha deciso poi di scudare quelle attività che nel frattempo aveva lasciato all'estero, che erano state guadagnate lecitamente all'estero, ma che evidentemente non aveva riportato subito in Italia. Quindi lo scudo ha dato la possibilità anche a questi soggetti di sanare una situazione che anche in quel caso non era ben definita da un punto di vista proprio normativo di circolari. Diciamo che su questi aspetti sicuramente i dubbi ancora esistono, è bene chiarire questo per tranquillità degli ascoltatori che il 16 di luglio non si devono mettere in coda. Il pagamento dell'imposta va fatto con un F24, ma non succede come è successo con l'IMU di doversi presentare personalmente o con un proprio commercialista in banca per pagare l'F24. Perché è un versamento questo che compete non al contribuente, ma direttamente alla banca, all'intermediario, alla Certo. fiduciaria che lo ha assistito nell'operazione di scudo. Quindi come la banca ci preleva l'imposta di bollo sul conto corrente ogni trimestre, esattamente farà nella stessa modalità anche appunto per queste attività finanziarie che sono state scudate, che adesso sono di cui la banca praticamente ha il deposito, no? Così per dirla in maniera più semplice, farla capire ai nostri ascoltatori. C'è il tema della cosiddetta provvista, avvocato Vedana, nel senso che ecco, magari può essere che in questo famigerato conto da cui l'intermediario finanziario dovrebbe prelevare questa percentuale più volte errata che abbiamo dato all'inizio, poi magari la riprecisiamo, potrebbe essere appunto che non ci sia la capienza. Per quale motivo si dovrebbe verificare questa circostanza? Se un investimento è stato scudato e la banca ne è a conoscenza, com'è possibile che non ci siano i soldi per pagare l'imposta e per versarla? Beh, semplicemente perché magari i soldi sono stati investiti in titoli di Stato, italiani o non, in azioni, in bond, e quindi materialmente il conto scudato è un conto che ha al suo interno solo disponibilità finanziarie, titoli, strumenti Che finanziari, non possono non. essere liquidate ovviamente su decisione della banca stessa per poter versare questo denaro. Esattamente, il tema è proprio questo, Deborah. Il tema è chi decide quali strumenti vendere e quando venderli per creare la liquidità necessaria per consentire all'intermediario di pagare l'imposta che va pagata evidentemente con un F24, quindi vuol dire con denaro contante, tra virgolette, cioè deve essere comunque rappresentata da liquidità, da denaro, non da titoli o strumenti finanziari. Questo tema è particolarmente spinoso, quello della provvista e del come creare la provvista, quando si ha a che fare con le polizze assicurative. Molti italiani, diciamo indicativamente circa il 10-20% del totale degli scudi, quindi stiamo parlando, considerando la totalità degli scudi, quasi 30 miliardi del totale, tra i 30 e i 40 miliardi di tutti gli scudi, sono rappresentati da polizze assicurative. Cioè gli italiani hanno acquistato a suo tempo, hanno sottoscritto una polizza assicurativa, i motivi, gli ascoltatori li conoscono bene, la polizza è insequestrabile, impignorabile, non si pagano, perché lo dice la legge, imposte di successione e donazioni, quindi ha raccolto molti consensi la polizza Proprio per ragioni assicurativa. di Per natura fiscale, ragioni di secondo me. materia, molti hanno scudato polizze. Le polizze hanno investito, quindi tramite le compagnie assicurative, hanno investito in strumenti finanziari non sempre facilmente liquidabili. Anche le polizze sono assoggettate a questo prelievo, chiamiamolo forzoso, chiamiamola imposta speciale, chiamiamola, a questa tassa. Questo 1,35% deve essere prelevato dalla polizza. Qualcuno dice di fatto è un riscatto parziale, Certo. altri dicono non è un riscatto parziale, è qualcos'altro perché comunque devi far fronte ad un obbligo fiscale, quindi non si può considerare anche fiscalmente, soprattutto un riscatto, se no verrebbe ad essere pagata due volte l'imposta dal cliente per imposta come imposta di bollo e un'imposta del 20% sul riscatto. Quindi, Certo. quindi il tema delle polizze è molto spinoso. Ed è uno sui temi sui quali noi intermediari stiamo raccogliendo qualche difficoltà operativa maggiore. Ecco, ma mi stavo chiedendo, avvocato Vedana, questo succederà anche per i suoi clienti, non ne si accorgeranno in questi giorni che devono fare questo versamento entro il 16 luglio, quindi immagino, voglio sperare, che i contribuenti interessati a questo impegno si troveranno pronti dal punto di vista della liquidità da versare, appunto, o può capitare anche che qualcuno invece non abbia il portafoglio pieno? Bah, può capitare di tutto, fondamentalmente. Diciamo che la maggioranza dei clienti non si stanno accorgendo di quanto sta succedendo, magari la banca glielo ricorda, ma tra virgolette subiscono la tassazione senza doversi preoccupare di fare E se alcunché. la provvista non c'è, quel giorno che succede? Quel giorno succede che o il cliente la mette a disposizione dell'intermediario, e quindi ad Ma esempio. ammettiamo che non lo faccia, si arriva al 16 luglio senza questa Se famigerata arriva, provvista. se non arriva la provvista, l'intermediario non può pagare l'imposta, di conseguenza dovrà comunicare, non subito, non nell'immediato, ma il prossimo anno con la dichiarazione di sostituto d'imposta che deve fare l'intermediario, quindi il famigerato 770, che è la dichiarazione dei redditi del sostituto d'imposta, deve comunicare l'anno prossimo i nominativi dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento dell'imposta. Non esiste un ravvedimento per questo impegno con il fisco. Esiste un ravvedimento, ma deve essere veloce il contribuente. Mm-hmm. Per ogni giorno in cui non si è provveduto al pagamento c'è l'applicazione di una piccola sovrattassa che più passano i giorni e più ma magari ammettendo che anche per ragioni che possano essere riconducibili allo stesso intermediario che magari non ha liquidato nei tempi previsti appunto un'attività finanziaria, magari non per sua colpa il contribuente non si ritrova questa provvista, appunto, però magari può farlo il versamento nei giorni successivi pagando però qualche cosina. Paga qualcosina, purtroppo se non si sbriga, se non se ne accorge subito lui barra l'intermediario, ma l'intermediario evidentemente se ne accorge, certo. E normalmente, parlo per quanto ci riguarda, i clienti hanno ricevuto già da qualche settimana una lettera con la quale gli si ricorda che c'è effettuare questo versamento e quindi o la provvista ce la dà lui oppure utilizziamo quella che c'è sul suo conto corrente, sul suo deposito titoli e via dicendo. Diciamo che normalmente il contribuente è informato dall'intermediario. Ora qualcuno l'ha informato telefonicamente, qualcuno l'ha informato con una lettera, qualcuno ha utilizzato altri canali. Diciamo che normalmente l'informativa gli è arrivata. A questo punto il contribuente sono i giorni ultimi utili per provvedere in tempo a mettere a disposizione la provvista all'intermediario per saldare il conto col fisco entro il 16 di luglio. Benissimo, allora Tina ci scrive, però adesso devo andare in pausa, intanto avvocato gliela leggo, questa domanda: nel 2007 ho acquistato un immobile in Portogallo, ho fatto tutti i passaggi dell'acquisto tramite la mia banca, non ho mai fatto comunicazioni, ora sto pagando l'IVI, sono in regola? Tra l'Italia e San Marino non ci sono più segreti. Il Senato ha infatti approvato la ratifica di una convenzione che vuole prevenire le frodi fiscali. Si risolveranno in modo più immediato i casi di doppia residenza fiscale, privilegiando la sede effettiva del contribuente. E il governo potrà tenere sotto controllo il traffico di capitali fra le due repubbliche, così come utili, dividendi, canoni o interessi percepiti da società di origine italiana con sede a San Marino. E non c'è banca che tenga. Nessuno dei due stati potrà opporsi alla richiesta di informazioni, anche nel caso in cui queste riguardino un'istituzione finanziaria. Così come all'interno del nostro paese, quindi, il segreto bancario, per come lo si conosceva fino a poco tempo fa, non esiste più neanche al di là di questa frontiera. Ci sembrava carina appunto anche proporvi questa pillola questa mattina. Avremmo clamorosamente sbagliato sulle percentuali relative alle aliquote da versare entro il 16 luglio qualora in passato abbiate detenuto appunto capitali all'estero. C'è questa imposta di bollo speciale da versare appunto entro metà luglio, quindi abbiamo sbagliato la percentuale, ma quantomeno a creatività non possiamo lamentarci, quella del nostro Marco Lombardo che addirittura su questa scheda ha messo l'inno nazionale di San Marino. Avvocato Vedana, che portata ha questa notizia della quale abbiamo appena parlato? Beh, una portata decisamente rilevante nei rapporti bilaterali tra Italia e San Marino, che è la più antica repubblica del mondo, ricordiamolo. Ecco, loro sono contenti di sentirlo dire e raccontare sempre. È importante e va nella direzione auspicata anche dalla Commissione europea. Ricordiamo, questa convenzione che l'Italia ha sottoscritto con San Marino va nella direzione di recepire i contenuti delle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni e contro, diciamo, il mantenimento del segreto bancario, non in assoluto, quindi non c'è il segreto bancario. Il segreto bancario non è opponibile anche nei rapporti Italia-San Marino, laddove, ad esempio, lo Stato italiano voglia indagare per motivi di ordine fiscale, quindi per presunta evasione fiscale, su un soggetto che ha dei conti su San Marino. Fino a ieri San Marino opponeva il fatto che a San Marino reato fiscale non è l'evasione fiscale, mentre adesso con questa convenzione così non potrà più fare, quindi non potrà più opporre l'esistenza del segreto bancario e di conseguenza sarà più facile tra i due paesi poter colloquiare, per l'Italia avere informazioni relativamente ai clienti italiani che hanno rapporti su San Marino. E l'anagrafe dei conti brinda in queste ore a questa notizia? Ma diciamo che a San Marino non c'è l'anagrafe dei conti, quindi vedremo se anche San Marino, come già fatto in altri contesti, ad esempio nella lotta al riciclaggio piuttosto che nella normativa bancaria, se andrà un po' nella direzione di, tra virgolette, fare propri provvedimenti già adottati dall'Italia. No, ma io parlavo di quella italiana, appunto, qualora San Marino dovesse essere, si dovesse necessariamente impegnare a trasferire anche tutti i rapporti, appunto, con intermediari che i contribuenti italiani hanno presso Banca, appunto, di San Marino, se devono trasferire anche loro a questo punto, no? Assolutamente no. Diciamo che l'anagrafe tributaria, anagrafe dei rapporti, che dir si voglia, così come anche modificata nel corso del 2012, deve essere alimentata dalle banche, dagli intermediari italiani, perfetto, non dalle banche, dagli intermediari esteri. Diciamo che questo accordo, comunque, per concludere, è un accordo che va nella direzione voluta dalla Commissione europea. Ricordiamo che dal 1 gennaio 2015 in tutti i paesi dell'Unione europea, Lussemburgo, Malta, Cipro compresi, non potrà più essere opposto, nel caso di richieste provenienti da un altro Stato membro, come può essere l'Italia, ad esempio, l'esistenza di un segreto bancario, laddove lo Stato italiano, ad esempio, chieda informazioni perché sta indagando su un certo soggetto contribuente italiano che si ritenga abbia dei conti presso una banca europea, e se l'indagine ha ad oggetto, appunto, il contrasto ai reati di tipo fiscale. Quindi già dal 1 di gennaio 2015 sarà così in tutta Europa. Questo accordo che l'Italia ha fatto con San Marino anticipa un po' i tempi di quello che comunque avverrà a livello europeo dal gennaio 2015. Allora, ritorniamo al tema dal quale siamo partiti, e cioè questa scadenza imminente, il 16 luglio, quella entro la quale gli intermediari finanziari italiani dovranno procedere al versamento della cosiddetta imposta di bollo speciale del 13,5 per mille sul valore delle attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio fisico o giuridico, appunto, e sono state e sono ancora secretate e sono state oggetto di questo rimpatrio, appunto, nel 2012. Prima di tornare su questo tema, però, una domanda che chiaramente è più o meno vicina al tema di stamattina, e cioè la situazione dell'ascoltatrice che ha acquistato questa abitazione in Portogallo. Avvocato, cosa deve fare? Beh, mi pare di capire che l'ascoltatrice ha già provveduto a pagare l'IVIE, sì, che è l'altra imposta patrimoniale introdotta dal governo Monti sempre nel 2001, col 2011 col decreto Salva Italia, imposta sul valore sugli immobili esteri. Non deve preoccuparsi di fare altro in questo momento, nel senso che se ha pagato l'IVIE e ha esposto l'immobile nel quadro RV della dichiarazione dei redditi, non deve pagare queste ulteriori imposte speciale sugli scudi, nella misura in cui comunque, se anche quell'immobile l'avesse scudato, lo scudo, l'imposta speciale sugli scudi, non riguarda le attività patrimoniali ma solo le attività finanziarie. Beh, quindi io... sono chiamati a versare tramite l'intermediario questa imposta speciale il 16 di luglio solo coloro che hanno fatto degli scudi fiscali avente d'oggetto attività finanziarie, quindi tipicamente le polizze, i conti correnti, i depositi, i fondi, le gestioni. Benissimo, andiamo al caso invece di Francesco dalla provincia di Padova, che ci chiama all'800240024, che saluto. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ci dica. Io sono un po' una summa di tutta una serie di problemi. Quando ero giovane ho lavorato all'estero, essendo nell'albo dei residenti all'estero, avevo l'autorizzazione ad essere pagato su un conto corrente estero. Sì. Lavorai per 6 anni, quindi per 6 anni praticamente i miei stipendi rimasero all'estero, no? Con questi soldi poi ho acquistato una casa in Inghilterra che è cointestata con mia moglie, che vive a Londra. Nel frattempo, rientrato in Italia, ho lavorato per alcuni anni in Svizzera, e rientrato un'altra volta in Italia e ritornato ancora in Svizzera, in questo momento sono titolare e al contempo dipendente di un'azienda svizzera. Quindi io avevo soldi all'estero, non li ho mai dichiarati, con parte dei soldi che avevo ho comprato un immobile all'estero, e attualmente ricevo ancora uno stipendio dall'estero, e sono nel contempo anche titolare di un'azienda estera. Io non ho mai fatto né dichiarazioni né versamenti né scudi, non ho mai fatto niente. Basta, mi fermo qua. Francesco, allora, intanto calma e gesso. Avvocato Vedana, da dove cominciamo qua? Cominciamo dall'Inghilterra, intanto. Ma io direi, arriverei subito alle conclusioni. Se l'ascoltatore non è, come mi pare, residente fiscalmente in Italia, le tasse le paga nel luogo in cui ha la sua residenza fiscale. Se invece ha la sua residenza fiscale in Italia, quindi per più della metà dei giorni che compongono un anno, vive in Italia. Ce lo facciamo confermare magari il magari, caso. Francesco? Sì, sì. Allora, io sono residente in Italia, anche se la mia attività, che è appunto commerciale, mi porta all'estero per più del 50% del mio tempo al di fuori dell'Italia. Allora, vediamo che situazione fiscale ha, anagrafico fiscale. Diciamo che una dichiarazione fiscale, quindi probabilmente la presenta in Italia questo signore. Se così è, come mi pare di capire, comunque il tema delle attività detenute all'estero dal reddito derivante dalla precedente attività lavorativa e in particolare l'immobile andrebbero esposte nel famigerato quadro RV della dichiarazione dei redditi, quadro del quale oggi il Sole 24 Ore parla in maniera molto dettagliata, pagina 17, perché c'è una riforma. Francesco, ma lei a chi la presenta la sua dichiarazione dei redditi? A Londra, a Lugano, a Basilea? Io non presento dichiarazione dei redditi perché lavorando all'estero e avendo un permesso regolare di lavoro, lavoro per una società svizzera, tanto per capirci, sì, non ho l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi. Avvocato Vedana, io qua non saprei dove mettere le mani, mi dica un po' lei. Quindi... Ma io penso che se non fa una dichiarazione dei redditi in Italia e non ci sono elementi sufficienti per considerarla in via presuntiva, secondo criteri definiti dal fisco italiano, ricordiamo che la Svizzera è considerata ancora oggi un paese blacklist, quindi se lei ha residenza in un paese blacklist a fini fiscali e questa residenza comunque effettivamente certificata come in questo paese, può stare comunque tranquillo. Se invece ci sono elementi come quelli che lei ci ha raccontato e comunque un discreto numero di giorni all'anno lei è in Italia, credo che una chiacchierata magari più approfondita col commercialista la maggior parte dei giorni è fuori dall'Italia e però anche un bel po' di giorni in Italia mi pare di capire, quindi bisogna stare attenti che ci sono dei criteri di presunzione di residenza all'estero. Se un cittadino italiano si va ad iscrivere all'albo dei residenti italiani all'estero, l'AIRE a cui faceva riferimento l'ascoltatore, e la residenza viene spostata in un paese considerato fiscalmente privilegiato come la Svizzera, quindi a questo punto l'Agenzia delle Entrate tra virgolette se ne frega, ecco, del numero di giorni in cui risiedi in Italia. È sufficiente che tu mantenga dei collegamenti stretti con il nostro paese per essere considerato fiscalmente attratto dalla nostra normativa e di conseguenza ne deriverebbero tutta una serie di conseguenze. Però non vorrei aver colto solo alcuni degli elementi, quindi forse... Magari, guardi Francesco, faccia una cosa, se vuole ci scriva, così almeno con qualche dettaglio in più l'avvocato Vedana ne riuscirà a dare una consulenza assolutamente più appropriata. Volevo sgombrare anche il campo da altri equivoci che vedo stanno generando molta confusione tra i nostri ascoltatori. Allora, non è che se voi avete aperto quest'anno un conto corrente all'estero, avete comprato una casa, dovete pagare adesso l'imposta di bollo speciale del 13,5 per 1000. Avvocato Vedana, ribadiamolo, questa è un'imposta che vanno a versare quei contribuenti che hanno scudato, hanno rimpatriato capitali che in passato detenevano all'estero. Assolutamente, quindi è un'imposta speciale sugli scudi, quindi un'imposta che è stata introdotta dal governo Monti per... tra virgolette colpire, per tassare quei patrimoni che sono stati oggetto di uno degli scudi fiscali tra il 2001 e il 2003, il 2009 e il 2010. Chi ha aperto in data successiva o non ha comunque ritenuto di scudare i patrimoni, quindi chi non si è avvalso dello scudo, dovrà comunque fare i conti col pagamento di imposte che prima non c'erano sui beni che detiene all'estero, in particolare con l'IVAFE per chi detiene delle attività di tipo finanziario oltre confine e con l'IVIE per chi detiene degli immobili. Però non sono delle imposte che gravano su tutti, ma soltanto appunto su quelli che hanno o delle attività finanziarie o delle attività immobiliari e si applicano con modalità diciamo particolari. L'IVIE, così come l'IVAFE, vanno applicate, diciamo saldate con la dichiarazione dei redditi, ci sono appositi quadri e l'RM della dichiarazione quindi dei redditi. Non c'è neanche nessuna operazione particolarmente complicata, però non è semplice, Deborah, però è un'altra strada. Si fa tutto, diciamo, nella normale attività di dichiarazione dei redditi, non c'è nessun esercizio particolarmente contorto da fare. Eccoci qua. Allora, prima di concludere sul tema di questa mattina, volevo ricordarvi che domani parleremo di saldi, un tema sicuramente trito e ritrito, ma che quest'anno ci interessa in maniera particolare monitorare, perché, come sapete, insomma, il portafoglio piange per molte famiglie. Allora, raccontateci come sono andate quest'anno le operazioni di acquisto con i prodotti appunto a sconto, qual è il vostro bilancio, come avete trovato i prezzi, le offerte dei punti vendita. Noi vorremmo già cominciare a raccogliere le vostre testimonianze telefoniche, chiaramente. oggi pomeriggio, andando a curiosare a nord, a sud, a centro. Se siete disponibili per una velocissima intervista nel pomeriggio, proponetevi, scriveteci o su Facebook, oppure scriveteci un'email a salvadanaio@radio24, oppure se volete ditelo anche alle nostre ragazze del centralino all'800 24 00 24, così magari prepariamo in maniera differente dal solito la nostra trasmissione. Allora, capitali all'estero, il bollo da pagare entro il 16 luglio, sentiamo la domanda di Silvia da Firenze. Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io ho fatto questo, l'anno scorso a gennaio ho aperto un conto presso le poste svizzere perché avevo l'occasione di trasferirmi per lavoro. Poi l'occasione è sfumata, il conto l'ho lasciato aperto, ma in realtà non ci ho mai trasferito nulla tranne pochi 100 euro per le spese. Quando ho fatto la dichiarazione dei redditi mi è stato detto, non essendoci stata movimentazione sopra i 10.000 euro, non devi né dichiararlo né pagarci niente. Sì. Quindi volevo sapere se la situazione è sempre questa e come viene modificata da questa imposta di cui parlate. Mi spiace che sia svanita la sua opportunità professionale, Silvia. Comunque, a parte questo, avvocato Vedana, mi pare che la consulenza che Silvia ha ricevuto sia stata corretta. È corretta, assolutamente, non avendo superato il famoso saldo dei 10.000 euro, che con la riforma dell'RV di cui si parla oggi sul giornale si alzerà a 15.000 euro addirittura, quindi ci sarà un innalzamento di questa soglia di rilevanza ai fini della compilazione dell'RV. Può stare tranquilla. Quindi se io ho tre conti tranquilla. Correnti in Svizzera con depositi inferiori a queste soglie, posso fare a meno di dichiararlo sul quadro RV? Poi conta il cumulo. Conta il cumulo. Ah, ecco, va, quindi attenzione, non facciamo i furbetti. Diventa troppo facile. Vabbè, insomma, mi è venuta in mente questa domanda, io l'ho fatta. Stefano da Milano, buongiorno. Stefano, sì, buongiorno. Mi dica, ci dica. Mi sentite, sì. Certo. Dunque, io avevo questa domanda. Mia moglie è di nazionalità francese, è residente in Italia da circa 6 anni. Lei ha mantenuto in Francia un conto corrente postale, un fondo pensione e un fondo di investimento statale sul quale ha un interesse garantito. Va bene, delle piccole attività finanziarie, certo, il suo risparmio, diciamo, sì, è gestito lì. Sicuramente il saldo complessivo delle attività che ci sono è superiore ai 15.000 euro. Volevo chiedere, in questo caso, essendo lei anche residente cioè qui in Italia, però di nazionalità francese, se c'è qualche cosa da dichiarare. Avvocato Vedana, cosa deve fare la moglie del nostro ascoltatore? Se attualmente risulta residente fiscale in Italia e quindi presenta una dichiarazione dei redditi in Italia, dovrà regolarizzare questa situazione anche delle attività detenute oltre confine. Se non lo ha mai fatto fino a questo momento, come mi pare di capire? Se non l'ha mai fatto, fino ad oggi avrebbe dovuto scontare, nel caso in cui venisse rilevata l'omessa indicazione dell'RV, un'imposta che varia, una sanzione dal 10 al 50% del valore. Siamo proprio a percento, 10-50%. Non per 1000, per cento. No, questo siamo a percento. Dal 10 al 50%. La Francia non è un paradiso fiscale, altrimenti avrebbe portato il 50% fino al 480% di quanto non dichiarato. Con la riforma di cui si parla sempre oggi sul giornale, queste sanzioni verranno ridotte dal 3 al 15%, quindi diciamo che nelle more dell'emanazione di questo provvedimento, che è andato al Senato ieri, adesso deve passare alla Camera, magari aspettare, fare una verifica col commercialista, ma dovrebbe essere questione di giorni l'entrata in vigore di questo nuovo provvedimento, che consente di mettersi a posto pagando molto poco. Ecco. Benissimo, allora sentirei adesso, l'SMS di un ascoltatore che non si firma e ci dice: ma se io ho una casa in un paese extraeuropeo e non la dichiaro in Italia, cosa succede? Come fa il fisco a far sapere che io possiedo una casa all'estero? Infatti diciamo che gli scudi fiscali servono proprio a questo. Però se uno viene pizzicato, avvocato Vedana... Beh, se viene pizzicato è un guaio, soprattutto se l'attività è detenuta in un paese considerato ancora fiscalmente privilegiato. Cioè, diciamo, se uno si compra una capanna in Venezuela, è chiaro che magari il fisco italiano rischia di non saperlo mai, però potrebbe anche esserci. Dipende sempre, qua non voglio però scadere nel suggerire metodi più o meno ortodossi. È evidente che se la capanna viene acquistata con 5.000 euro in contanti, che ci si è portati in vacanza, è un conto. se la capanna o la casa o la villa viene acquistata con denaro che viene trasferito da un conto italiano ad un conto estero, allora diventa più facile per il fisco, anche perché le banche italiane hanno l'obbligo del cosiddetto monitoraggio valutario e fiscale. Quindi se c'è un'uscita di denaro da un conto italiano verso un conto estero, anche se magari intestato non alla persona ma ad un altro soggetto, ad un'interposta persona, il fisco può indagare ed arrivare, soprattutto grazie alla nuova anagrafe, quella che entrerà in vigore sostanzialmente tra fine anno e il 2014, avrà maggiori e ulteriori diciamo strumenti per accertare l'esistenza di queste situazioni ed arrivare poi al bene finale non dichiarato. C'è qualcos'altro da segnalare relativamente a questa scadenza del 16 luglio, avvocato Vedana? Questa imposta di bollo speciale annuale sul valore delle attività finanziarie emerse negli scudi passati? Beh, nel ribadire che è dell'1,35%, Come mai lo ribadisce? 1,35% o 13,5 per mille, questo ricordiamolo. Il contribuente non deve mettersi in fila in banca, fa tutto l'intermediario, l'importante è che ci sia la provvista sul conto. La domanda classica è: ma mi conviene, cos'è sta segretazione del conto scudato? Abbiamo un minuto per chiarire questo fondamentalmente aspetto. È quella caratteristica che si associa ai conti scudati di riservatezza, che tradotta in termini pratici cosa vuol dire? Che se un'autorità giudiziaria civile indaga su un determinato soggetto, pensiamo alla classica separazione di coniugi, il marito ha fatto lo scudo, la moglie non lo sa, si stanno separando, se c'è questa segretazione il marito può pensare di sperare che la moglie non metta le mani su questo che la moglie non metta, non dovrei dirlo, io sono sposato e felicemente sposato, però vabbè. Ecco, ai maschietti meno fedeli sta mettendo delle idee che non ci piacciono. Detto questo, comunque è una sorta appunto di condizione di riservatezza di queste attività finanziarie sulle quali però il bollo il bollo va pagato, ecco. L'1,35% quest'anno, lo 0,4%. La banca sa qual è l'importo, per chi è segreto allora dunque questa... Per chi è segreto? Per i terzi soggetti che siano diversi dalla magistratura penale. La magistratura penale comunque ha titolo di sapere tutto sullo scudo fiscale. Il fisco lo sa? Il fisco, di fronte al fisco, finché c'è la segretazione del conto, se il fisco chiede alla banca, alla fiduciaria, informazioni sul conto scudato, se c'è la segretazione, quindi il cliente ha pagato l'1,35, non deve comunicare niente. La banca si fida dell'intermediario che versa la percentuale, evidentemente, per conto del contribuente. Sì, ecco, il fisco non può sapere altro su quel conto, non ha titolo per avere... Si fida dell'intermediario, ma soprattutto il fisco potrebbe chiedere maggiori informazioni perché sta facendo un accertamento fiscale su quel cliente. Se c'è lo scudo e c'è ancora la segretazione, non può chiedere queste informazioni. Se le chiede, l'intermediario dirà: c'è la segretazione da scudo, non ti posso dare altri dati. Quando si esce dalla condizione di segretazione? Quando si esibisce la dichiarazione riservata, quindi il pezzo di carta usato per lo scudo, lo si esibisce a chi? All'amministrazione finanziaria, alla Guardia di Finanza, nell'ambito di una visita che il contribuente riceve nell'ambito di un accertamento fiscale, o nelle altre situazioni previste da una circolare dello scorso anno, la 29 e del 5 luglio del 2012, con la quale l'Agenzia dell'Entrata ha chiarito quando si perde la segretazione. Allora, intanto adesso che abbiamo terminato la nostra trasmissione, ovviamente stanno cominciando ad arrivare le telefonate, non riusciamo a prendervi più, ma scriveteci perché l'avvocato Vedana ci aiuterà chiaramente a chiarire le vostre situazioni. Sui saldi, vi ho detto, se volete raccontarci la vostra testimonianza di come avete approfittato degli sconti in questi giorni, vi ho invitato a telefonarci per una intervistina veloce nel pomeriggio. Possibilmente, se ce la fate, chiamateci per prenotarvi tra le 13 e le 14 all'800 24 00 24, oppure candidatevi alla mail salvadanaio@radio24.it. Avvocato Vedana, grazie. Grazie, buona giornata, a presto, ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.